Ma è mettere in questione l'equilibrio esistente se per negazione il suo pensiero ricorrente il disequilibrio. Non comunicabile la grammatica parla da sé e vincola il libero arbitrio. Non calcolabile, come nulla può essere al di fuori di una successione numerica. Taglia la testa passando con gomma sul collo, perché invoca scissione tramite secessione alfabetica. Non fa neanche male, insomma, la soluzione non ma c'è. Ed è infinitamente antiestetica al senso di uguale, due terzi di una coincidenza, come il silenzio, abile ad essere assente dalla presenza, ma non per questo non presente in classe. Seduto nell'angolo in alto a sinistra, sedia appesa al soffitto, non lo si nota semplicemente che sta zitto. Non lo si vede perché gli occhi non servono a questo, e non a tempo. Quindi tutto il tempo per non fare presto. Metaforialmente parlando, un giorno vidi un infante alle prime armi con il suo corpo arma, più o meno a due passi dal suo stesso inizio o su di lì. O per primo goffo armistizio al suo aver quattro zampe, retto da un genitore, lui, retto del genitore, bambina dello Stato che all'arte e all'età avanza salendo al gradino inferiore. Se ci ripenso, scuola fu il suo primo attacco al mio filtro interiore. Se ci ripenso, scuola fu il suo primo attacco al mio filtro interiore.